Ad alta voce, Marco Foschi legge Gioventù senza Dio di Ødon von Horvath, traduzione di Bruno Maffi. Adamo ed Eva. Poco dopo le 4 il reggimento si rimette in marcia. Da quando zoppica il sergente è in vena di dare spiegazioni. Perciò si è trascinato dietro tutti i ragazzi, anche i cuochi, per spiegare dove il terreno è più adatto a costruire trincee e rifugi e come si fa a scavare la terra. Sono dunque assolutamente solo. Appena la colonna scompare nella foresta, penetro nella tenda dove dormono Z, M e R. Vi sono 3 sacchi a pelo arrotolati. Su quello di sinistra c'è una lettera. No, non è quella che cerco. È indirizzata al signor 8N, mittente Elisabetta N. Ah, la moglie del fornaio. La curiosità mi vince. Che cosa scrive la madre al figlio? Mio caro Otto, scrive, grazie della tua cartolina. Tuo padre e io siamo felici di saperti in buona salute. Stai attento alle calze, che non le scambino con quelle di altri. Dunque, fra 2 giorni sparirete. Mio Dio, come passa il tempo. Papà dice di pensare a lui quando sparirai il primo colpo, perché era il primo tiratore della sua compagnia. Figurati che Mandy è morto. Avantieri saltellava ancora allegramente nella sua gabbia e ci rallegrava con i suoi trilli. Oggi non è più. C'è un'epidemia fra i canarini. L'ho trovato con le zampine stecchite e l'ho bruciato nel forno di cucina. Ieri abbiamo mangiato uno squisito cosciotto di montone. Abbiamo pensato a te. Mangi bene, papà ti saluta e dice di tenerlo informato se il professore vi fa dei discorsi sul genere di quello sui negri. Non perderlo d'occhio. Papà gli romperà il collo. Tanti baci, caro Otto, dalla tua mamma. Il sacco successivo non contiene nulla. È quello di R. La cassettina sarà dunque nel terzo. Infatti, è un cofanetto di metallo azzurro, con una serratura semplice. È chiuso. Cerco di aprirlo, servendomi di un pezzo di fil di ferro, e vi riesco senza difficoltà. La cassettina contiene delle lettere, delle cartoline e un libro rilegato, sulla cui copertina c'è scritto a lettere d'oro «Il mio diario». Lo apro. «Dalla tua mamma». Il giorno di Natale. Chi è la madre di Zeta? Credo la vedova di un funzionario o qualcosa di simile. Poi vengono le prime annotazioni. Qualcosa sull'albero di Natale. Continuo a sfogliare. Eccoci a Pasqua. In principio Zeta scriveva tutti i giorni. Poi solo ogni 2, 3, 6 giorni. Ah, ecco la lettera. Una busta cincischiata, senza indirizzo, senza francobollo. Presto, che cosa contiene? Non posso venire oggi, verrò domani. Eva. È tutto. Chi è Eva? Io so soltanto chi è Adamo. Adamo è Zeta. E leggo il suo diario. Mercoledì. Siamo arrivati al campo ieri. Siamo tutti molto contenti. Adesso è notte. Ieri non ho potuto scrivere perché eravamo tutti stanchi e a furia di piantar tende. Abbiamo anche una bandiera. Il sergente è un vecchio mulo. Non si accorge neppure che lo prendiamo in giro. Il professore, grazie a Dio, non lo vediamo quasi mai. Non si cura affatto di noi. Non fa che gironzolare con un'aria idiota. Anche N è un mulo. È la seconda volta che grida. Vuole che io spenga la candela, ma se lo facessi non potrei più scrivere. E io voglio conservare i miei ricordi per più tardi, per la vita. Oggi pomeriggio abbiamo fatto una marcia fino ai piedi delle montagne e siamo passati davanti a delle rocce in cui si aprivano numerose caverne. A un certo punto il sergente ci ha ordinato di inoltrarci in ordine sparso dentro il bosco, verso un nemico che si doveva supporre trincerato su una linea di colline. Ci siamo sparpagliati per la boscaglia, ma questa diveniva sempre più folta e a un tratto non ho visto più nessuno, né a destra né a sinistra. Mi ero smarrito, tagliato fuori dagli altri. Ad un tratto mi sono trovato davanti a una roccia con una caverna. Devo aver girato in tondo. Improvvisamente davanti a me è apparsa una ragazza. Aveva i capelli biondo scuri e una camicetta rosa. E io mi chiedevo come fosse potuta arrivare fin lì. Mi ha domandato chi ero. Io l'ho detto. C'erano anche due bambini, a piedi nudi, coperti di cenci. Uno aveva un pane, l'altro un vaso e tutti e due mi guardavano ostili. La ragazza ha detto loro di rientrare, che mi avrebbe mostrato il sentiero per uscire dal bosco. L'ho ringraziata e lei mi ha accompagnato. Le ho chiesto dove abita e mi ha detto dietro le rocce, ma sulla carta militare che avevo con me non c'erano case là dietro, neppure nei dintorni. La carta è falsa, ha detto. Siamo arrivati così alla fine del bosco e di lì ho visto il campo. Allora lei si è fermata e mi ha detto che doveva ritornare, ma che mi dava un bacio se le promettevo di non dire a nessuno che l'avevo incontrata. Perché? Le chiesi. Perché così desiderava. Inteso, ho detto, e lei mi ha dato un bacio sulla guancia. Non vale, ho detto io, un bacio è un bacio solo sulla bocca. Allora mi ha dato un bacio sulla bocca e mi ha infilato dentro la lingua. Le ho detto che era una sgualdrina. Lei ha riso e mi ha dato un altro bacio come quello. Io l'ho respinta. Allora ha raccolto un sasso e me l'ha tirato. Se mi avesse colpito la testa, sarei bello e morto ora. Glielo ho detto. Mi ha risposto che se ne infischiava. Ti avrebbero impiccata, le ho detto. Ha risposto che presto o tardi lo sarà in tutti i modi. D'un tratto mi sono sentito a disagio. Mi ha detto di avvicinarmi. Non ho voluto sembrar vile e mi sono avvicinato. Lei mi ha afferrato e mi ha cacciato la lingua in bocca una terza volta. Allora la rabbia mi ha preso. Ho strappato un ramo e ho cominciato a picchiarla. L'ho picchiata sul dorso e sulle spalle, mai sulla testa. Lei è caduta senza un grido. Quando l'ho vista per terra mi sono spaventato. Credevo di averla uccisa. Mi sono avvicinato e l'ho toccata col ramo. Non si è mossa. Se è morta, ho pensato, l'abbandono qui e scappo come se niente fosse successo. Stavo già per andarmene, quando ho visto che fingeva e mi guardava attraverso le palpebre socchiuse. Sono ritornato subito sui miei passi. Sì, non era morta. Avevo già visto dei morti. Non avevano la stessa faccia. A 7 anni ho visto un poliziotto e 4 operai morti in uno sciopero. Aspetta, ho pensato. Tu vuoi spaventarmi, ma vedrai se non ti farò alzare. Ho preso l'orlo della sua sottana e l'ho sollevata in un colpo. Non portava mutandine, ma continuava a non muoversi. E io mi sentii rimescolare. All'improvviso si alza e mi attira con rabbia contro di sé. Una vecchia storia. L'abbiamo scopato. Vicino a noi c'era un enorme formicaio. Poi le ho promesso di non dire niente a nessuno ed è scappata. Ho dimenticato di chiederle come si chiama. Giovedì. Abbiamo disposto tutto intorno al campo delle sentinelle, per via dei piccoli briganti. N grida di nuovo di spegnere la candela. Se grida ancora lo picchio. L'ho picchiato. Non me le ha restituite. Quello stupido di R ha gridato come se fosse lui a prenderle, il vigliacco. Quello che mi secca è di non aver combinato nulla con la ragazza. L'avrei rivista volentieri. Questa mattina la sentivo sotto di me, mentre il sergente comandava, in piedi, a terra. Penso sempre a lei. Solo la lingua non mi piace, ma lei dice che è tutta questione di abitudine. Che strano sentimento l'amore. Penso che si deve provare qualcosa di simile quando si vola, ma a volare deve essere ancora più bello. Non so. Mi piacerebbe averla vicina in questo momento. Ah, se fosse qui. Sono così solo. Per conto mio, mi metta pure in bocca la lingua. Venerdì. Finalmente dopodomani spareremo. Quest'oggi mi sono ancora picchiato con N. finirò per ucciderlo. Anche R si è preso qualche sventola. Del resto, di che cosa si impiccia quell'idiota? Ma tutto questo non mi interessa più. Non penso che a lei. E oggi più che mai, poiché stanotte è venuta. Tutto a un tratto, mentre montavo la guardia, me la sono vista davanti. A tutta prima ho avuto paura, poi mi sono sentito pazzamente felice e mi sono vergognato della mia paura. Grazie a Dio lei non se n'è accorta. Aveva addosso un profumo delizioso. Le ho chiesto dove l'aveva comprato. Mi ha risposto alla drogheria del villaggio. Deve essere costato caro, gli ho detto. Oh no, ha risposto. Non mi è costato niente. Poi mi ha baciato e siamo stati insieme. Mi ha chiesto che cosa avremmo fatto poi. L'amore, ho risposto. Lo faremo spesso? Mi ha chiesto. Sì, molto spesso. Era una ragazza perduta? Oh no, come potevo dire una cosa simile? Perché esce con me di notte? Nessuna ragazza è santa, ho detto. Improvvisamente le ho visto sulla guancia una lacrima. La luna le brillava in viso. Perché piangi? Perché tutto è così triste, mi ha risposto. E mi ha chiesto se avrei seguitato ad amarla, pur sapendo che era una ragazza perduta. Perduta? Perché? Mi ha detto che era orfana, che a 12 anni l'avevano mandata a servizio, che un giorno il suo padrone venne a trovarla. Lei non volle e rubò del denaro per fuggire da quella casa, che poi l'avevano chiusa in una casa di correzione, ma ne era fuggita e ora abitava in una caverna e rubava tutto ciò che le cadeva sotto mano. 4 bambini del villaggio, stanchi di verniciare bambole, l'avevano seguita e lei, essendo la più vecchia, era a capo della banda. Ma guai se raccontavo chi era, altrimenti l'avrebbero rimessa in casa di correzione. E io mi intenerì ed un tratto sentii di avere un'anima. Io l'ho detto. Mi ha risposto che anche lei ora sentiva di avere un'anima. Ma non dovevo giudicarla male se nel campo, mentre lei era con me, fosse successo un furto. Le ho risposto che non potevo giudicarla male, ma che non mi rubasse nulla, perché ormai eravamo una persona sola. Poi abbiamo dovuto separarci, poiché il mio turno finiva. Ci rivedremo domani. So come si chiama. Eva. Sabato. Oggi grande eccitazione, perché hanno rubato a Ellen la macchina fotografica. Non sarò certo io a compiangerlo. Suo padre ha 3 fabbriche e la povera Eva deve dormire in una grotta. Che cosa farà d'inverno? N grida ancora per via della luce. Lo picchierò. Non vedo l'ora che sia notte. Vorrei vivere con lei sotto una tenda, ma senza campo, da solo, solo con lei. Il campo non mi diverte più, non sa di nulla. Oh Eva, ti sarò sempre vicino. Non tornerai mai più in una casa di correzione, mai più, te lo giuro. Ti proteggerò, sempre. N grida che sfonderà la mia cassetta. Provi, se ci riesce. Ho confidato a queste pagine i miei più gelosi segreti. Non voglio che nessuno li sappia. Chi tocca la mia cassetta muore. Condannato. Chi tocca la mia cassetta muore. Leggo 2 volte la frase e non posso fare a meno di sorridere. Bambinate. Voglio riflettere su ciò che ho letto, ma non ci riesco. Dal bosco echeggia la tromba. Devo spicciarmi. Il reggimento si avvicina. Ripongo in fretta il diario e cerco di chiudere la serratura. Giro il filo di ferro in tutti i sensi, invano. La serratura non chiude più. L'ho rotta. Che fare? I ragazzi saranno qui fra qualche minuto. Infilo la cassetta aperta nel sacco e lascio la tenda. È l'unica soluzione possibile. Ecco il reggimento. Zeta in quarta fila. Così hai un amante e si chiama Eva. Sai che è una ladra, ma giuri di proteggerla ugualmente. Di nuovo non posso fare a meno di sorridere, bambinate, bambinate. Ora il reggimento si ferma e si sciolgono i ranghi. conosco adesso i tuoi più gelosi segreti, penso. Ma non riesco più a sorridere. Vedo il giudice istruttore. Sfoglia una pratica. L'imputazione è di furto e di favoreggiamento. Non soltanto Eva, ma anche Adamo deve risponderne. Lo si dovrebbe arrestare subito, Zeta. Devo parlarne al sergente e avvertire i carabinieri. O parlarne prima con Zeta. Vedo che si avvicina alle pentole e chiede che cosa c'è da mangiare. Scapperà dalla scuola e la ragazza rientrerà in casa di correzione. Andranno dentro tutti e due. Addio avvenire, mio caro Zeta. Uomini ben più grandi di te hanno inciampato prima di te nell'amore, che è anch'esso una necessità naturale e quindi voluta da Dio. E odo la voce del parroco. Dio è ciò che c'è di più terribile al mondo. E odo un baccano infernale, grida, rumore di lotta. Tutti si precipitano verso una tenda. È la tenda della cassetta. Zeta e N si picchiano. Solo a fatica si riesce a separarli. N è rosso e sanguina dalla bocca. Zeta è bianco. N ha aperto la cassetta di Zeta, grida il sergente. No, risponde N, non è vero, non sono stato io. Chi allora? Urla Zeta. Dica lei, signor professore, chi altri può averlo fatto? Non è vero, non è vero. È lui che ha forzato la serratura, lui e nessun altro. Non mi aveva forse minacciato di sfondarla, ma non l'ho fatto, silenzio! Comanda improvvisamente il sergente. Tutti tacciono. Zeta non abbandona N con gli occhi. Chi tocca la mia cassetta muore, penso, e involontariamente alzo gli occhi. Ma il cielo è mite. Sento che Zeta potrebbe davvero uccidere N. Anche lui deve sentirlo, perché si volge verso di me implorando: «Signor professore, vorrei cambiare tenda». «Va bene, cambierai tenda». «Ma davvero che non ho letto il suo diario, signor professore. Mi aiuti, la prego». «Ti aiuterò». Ora Zeta mi guarda. Leggo nei suoi occhi: «Non puoi aiutarlo». «Lo so. Ho condannato N». Pure volevo soltanto sapere se Zeta trafficava coi masnadieri per non accusarlo ingiustamente. Perciò ho forzato la cassetta. Ma perché non dico che sono stato io a leggere il diario? No, non adesso, non davanti a tutti. Lo dirò, certamente lo dirò, ma non davanti a tutti. Mi vergogno. Lo dirò a Zeta quando saremo soli, da uomo a uomo. E parlerò anche alla ragazza, questa notte, quando verrà. Le dirò di non farsi più vedere. A quell'imbecille di Zeta darò una bella lavata di testa e la faccenda finirà lì. Come uno sparviero, la colpa volteggia sopra di noi e ci piomba addosso, all'improvviso. Ma assolverò N. D'altra parte non ha fatto niente. E perdonerò a Zeta. E anche alla ragazza. Non mi lascerò condannare innocente. Sì. Dio è terribile, ma voglio distruggere i suoi calcoli col mio libero arbitrio. Farci sopra una bella croce, salvare tutti. E mentre così ragiono, sento che qualcuno mi guarda. È T. Due occhi chiari e rotondi mi fissano, senza luce, senza vita. Il pesce, penso trasalendo. Mi guarda esattamente come allora, al funerale del piccolo W. Sorride appena, strafottente, un sorriso ironico, stranamente fisso. Sa che sono stato io a forzare la cassetta. L'uomo della luna. La giornata mi parve molto lunga. Finalmente il sole tramontò. Venne la sera e io aspettai la notte. La notte venne e io uscii di soppiatto dal campo. Il sergente russava già. Nessuno mi ha visto. È vero che la luna piena batteva sul campo, ma da ovest le nubi accorrevano a cupi brandelli. Di colpo una tenebra fitta calava e durava a lungo finché la luce d'argento riappariva. Nel punto in cui il bosco toccava quasi le tende, Zeta monterà la guardia. Mi appostai dietro un albero. Vedevo perfettamente la sentinella. Era G. Andava su e giù, in alto le nubi, in basso tutto sembrava dormire. In alto infuriava l'uragano, in basso nulla si muoveva. Solo di tempo in tempo un ramo scricchiolava. D'un tratto G si fermò e i suoi occhi scrutarono la foresta. Io vedevo lui, ma lui non mi vedeva. Ha paura. Accade sempre qualche cosa nella foresta, soprattutto di notte. Il tempo passa. Ecco Zeta. Saluta G che se ne va. Zeta rimane solo. Si guarda intorno, poi alza gli occhi alla luna. Nella luna c'è un uomo, pensai improvvisamente, seduto sulla falce, fuma la pipa e non si cura di niente. Soltanto, di tempo in tempo, sputa su di noi. Che abbia ragione, saprà bene quel che fa. Verso le 2:30 viene la ragazza, così silenziosa che la scorgo quando gli è già accanto. Di dove è passata? È qui. Semplicemente si abbracciano, si baciano. Lei mi volta la schiena e lui non posso vederlo. È più alta di lui. Adesso vado a parlargli. Mi alzo adagio perché non mi sentano, altrimenti la ragazza fuggirebbe e io voglio parlare anche a lei. Si stanno ancora baciando. Gramigna sono. Bisognerebbe sterminarli, penso. Vedo una vecchia cieca che inciampa e cade e non posso cacciare dalla mente l'immagine della ragazza che guarda al di sopra della siepe. Deve avere delle belle spalle, ma sono i suoi occhi che vorrei vedere. Arriva una nube, buio, fitto. Non è grande la nube, perché ha un orlo argenteo. Quando riapparirà la luna, andrò. Eccola che riappare, la luna. La ragazza è nuda. Egli le si inginocchia davanti. È bianchissima. Aspetto. Mi piace sempre di più. Vai, dico a me stesso. Di che sei stato tu a forzare la cassetta, tu e non Anne. Vai, vai, dunque. Ma non mi muovo. Adesso è seduto su un tronco e si è preso la ragazza sulle ginocchia. Ha delle gambe magnifiche, lei. Vai, dunque. Sì, subito. Altre nuvole passano, più grandi, più nere. Non hanno bordi d'argento e la loro ombra copre la terra. Il cielo è scomparso, non vedo più niente. Tendo l'orecchio, ma non odo che dei passi nella foresta. Trattengo il respiro. Che c'è? O è soltanto il temporale? Non riesco neppure più a distinguere il mio corpo. Dove siete, Adamo ed Eva? Guadagnerete il pane col sudore della vostra fronte, ma sembra che neanche lo sospettiate. Eva ruba una macchina fotografica e Adamo chiude tutti e due gli occhi invece di montare la guardia. Lo dirò a Zeta domani prestissimo che sono stato io a forzare la cassetta. Domani nulla potrà più impedirmelo, anche se Dio mi mandasse 1000 ragazze nude. La notte si fa sempre più nera e mi tiene qui, immobile, cupo e silenzioso. Rientrerò sotto la tenda. Procedo a tastoni. La mia mano tesa incontra un albero. Lo evito, continuo a tastare, ma balzo indietro spaventato. Che cosa c'è? Il mio cuore si ferma. Vorrei gridare forte, ma mi domino. Che cos'era? No, non era un albero. La mia mano tesa ha incontrato un viso. Tremo. Chi c'è davanti a me? Non oso procedere oltre. Chi è? O mi sono sbagliato? Ma no, l'ho sentito troppo bene. Il naso, le labbra. Mi siedo per terra. Il viso sarà sempre lì davanti. Aspetta che torni la luce. Non muoverti. Sopra le nuvole l'uomo della luna fuma la pipa. Cade una pioggia fine. Sputami addosso, uomo della luna. Marco Foschi ha letto Gioventù senza Dio di Ødon von Horvath, a cura di Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Regia di Riccardo Amorese. Per riascoltare il programma radio3.rai.it. Per scaricarlo raiplayradio.it. Ad alta voce è un programma Rai, Radio 3.